Terra in vista. Le Olimpiadi spiegate a mio figlio. Ben ritrovati a Terra in vista con Federico Taddia e Telmo Piovani. Ciao Telmo. Ciao, bentornati. Ogni settimana una parola, con questa parola vi raccontiamo le Olimpiadi, che non sono solo delle gare, ma sono un mondo, sono uno stile di vita, sono insomma lo spunto per parlare di tante curiosità e di tante storie. La parola di oggi è corsa, che insomma è una parola assolutamente sportiva, vero Telmo? Cominciamo a entrare nel vivo, visto che la prima gara in assoluto è stata proprio la corsa dello stadio, no? È vero, i 200 metri, e si correva nudi, perché quella era la nudi alla meta. Perfetto, e quindi la parola corsa ci accompagnerà oggi, ma andiamo subito a scoprire per i bambini che cos'è la corsa. La parola corsa mi fa venire la parola tempo, perché è vero, c'è la corsa contro il tempo, però c'è molte gare di corsa, c'è anche un tempo che devi rispettare, e quindi mi fa venire la parola tempo, tutto qui. Ci si può liberare da tutti i pensieri. Un movimento dei piedi veloce. Correre per fare una gara, correre per allenarsi, per andare a comprare una cosa di corsa. Di movimento, mi fa venire il movimento, di correre. Sì, sentire il vento in faccia. Ti fa irrobustire le gambe. Corsa, qualcosa di veloce. Andare veloce. Sentirsi il vento fra i capelli mentre corri. Che poi diventi più forte, diventi più preparato e basta. Quello è un corso, quello che ti fa essere più preparato, non una corsa. Allora, bello il vento ho in visto, faccia. Il vento nei capelli, vedi? Romantici questi nostri ascoltatori. E poi questo stretto rapporto, perché è vero che il tempo corre, ma spesso si corre contro il tempo, quindi la corsa e l'orologio vanno molto a braccetto. Che cos'è la corsa invece, Telmo? Ma dunque, i bimbi hanno usato due parole chiave, sono stati bravissimi: movimento dei piedi, naturalmente, nel nostro caso siamo bipedi, e velocità. E questo è un grande cambiamento evolutivo che ci ha reso umani, letteralmente. Perché noi siamo bipedi, no? Uh-huh. Lo sono anche altri esseri viventi, gli uccelli, i dinosauri erano bipedi, però noi siamo mammiferi bipedi. Abbiamo imparato questa locomozione molto particolare che ci permette di correre e che ha il vantaggio che è flessibile, nel senso che un bipede come noi può correre a diverse velocità, può camminare, però può arrampicarsi ancora su un albero se gli serve, può nuotare. E pochi animali, noi non siamo bravi a fare grandi record, no? Lo stiamo vedendo con le nostre animaliadi, però siamo flessibili, cioè sappiamo fare tante cose diverse. Cioè, tipo anche solo stare sdraiati su un divano, che anche, insomma, non è che dobbiamo sempre fare fatica nelle nostre mille abilità, siamo bravi anche proprio a non fare nulla. C'è la modalità sdraiato, esatto. Però questa c'era anche sui rami, diciamo, quando stavamo ancora sugli alberi. E questa grande rivoluzione è capitata lì in circa 6 milioni di anni fa, però porta con sé due misteri almeno. Il primo è che tanti nostri antenati sono diventati bipedi a modo loro, cioè camminavano nei modi più diversi, oscillando, qualcuno col baricentro più in avanti. C'è un grande paleoantropologo, un grande studioso di evoluzione umana, che una volta ha detto: io studio la corsa, la camminata dei nostri antenati, e se dovessi scegliere una metafora sceglierei quella del bar intergalattico di Guerre Stellari. Hai presente quella dove stanno trattando per la nave e nel frattempo arriva gente con due gambe, tre teste, eccetera? Il bar di Guerre Stellari, cioè una diversità fenomenale anche nell'essere bipedi. Poi il secondo mistero è che sembrerà incredibile, ma non sappiamo ancora esattamente perché siamo diventati bipedi. Perché spesso si dice: ah vabbè, noi camminiamo e corriamo perché così abbiamo le mani libere. Uh-huh. Solo che queste mani libere le abbiamo usate per fare strumenti soltanto molto tempo dopo, quindi non sembra essere questa la causa. No. Qualcun altro ha detto: perché se tu ti alzi in piedi nella savana piena di erbe molto alte, riesci a dominare e vedere un po' più il territorio, però sei anche visto dai predatori, quindi non è detto che sia stata questa la causa. Ma a scuola dicevano: per raccogliere i frutti dagli alberi. Anche questa si è sentita, però tu hai mai visto uno scimpanzé, un gorilla che ha difficoltà a raccogliere un frutto? No, sono no, bravissimi oggettivamente anche loro, no, esatto. Non è che devi diventare bipede per raccogliere la frutta. Quindi alla fine rimane soltanto un'ipotesi che non la si dice mai, ma Sembra strano, ma diventare bipedi serve anche perché se tu ti trovi in un ambiente in cui c'è sempre meno ombra, perché non sei più nella foresta e sei negli spazi aperti, un'esigenza che hai è di ridurre il più possibile la superficie esposta al sole. E infatti noi abbiamo perso il pelo, tranne che nelle parti sopra, la testa, e nelle parti intime. Quindi l'essere bipedi è servito perché ha ridotto drasticamente la superficie esposta al sole cocente delle zone equatoriali e tropicali. Abbiamo imparato a spostarci raffreddandoci. Quindi i bambini non hanno tutto torti quando parlano del vento nei capelli, perché la corsa e il movimento in quel modo serve anche per raffreddarci. Quindi non una corsa contro il tempo, ma per andare a cercare l'ombra. Questo. Bravo, tra una radura e l'altra. Questa è la corsa che ci accompagnerà quindi in questa puntata. Adesso è il momento di non battere la fiaccola, le nostre curiosità a cinque cerchi, il traffico, poi qua, con Terra in Vista. Non batter la fiaccola, curiosità a cinque cerchi. Prima il bronzo, poi l'argento e infine l'oro. È in quest'ordine che gli atleti salgono sul podio. Podio che fece il suo debutto ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 1932. Tre gradini, le cui altezze sono decise dal CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Solo l'oro sul podio merita una posizione sopraelevata, mentre secondo e terzo si trovano allo stesso livello. Ma non tutte le discipline olimpiche lo prevedono. Nel canottaggio, ad esempio, le medaglie vengono consegnate subito agli atleti, che restano tutti lì dove sono, coi piedi per terra, anche perché in base alla misura delle imbarcazioni il numero dei premiati potrebbe addirittura arrivare a 27. E lì, sopra il podio, rischierebbero di stare un pochino stretti. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Terra in Vista. Eccoci qua, quindi, Terra in Vista. La parola di oggi è corsa. È il momento di dare risposte alle domande dei nostri ascoltatori. Vai col primo quesito. Yuhu! Perché ci piace tanto correre? In effetti a tutti piace correre, insomma, chi un po' meno, chi per infiniti chilometri, però la corsa è un qualcosa di innato in noi. Ce l'abbiamo dentro, sì. Fate capire perché. Perché ci piace correre? La risposta la chiediamo a Gaia De Pascale, che è scrittrice e insegnante autrice per Ponte alle Grazie del libro Correre è una filosofia. Ciao Gaia, benvenuta a Terra in Vista. Ciao. Ciao, grazie mille. Bellissima domanda, domanda difficile, perché in realtà ci sono tantissimi motivi per cui ci piace correre, che quando ci sono tante scelte, no, è sempre difficile dare una risposta sola. Ci sono motivi pratici, si corre perché fa stare meglio, si corre perché ci vogliamo sentire più in forma fisicamente, si corre perché si è dei corridori di professione, ma tutto questo in fondo non basta a dare una risposta vera. Se si pensa che ogni anno si vendono in tutto il mondo 1 miliardo di scarpe da corsa, ci si rende conto che il fenomeno è veramente un fenomeno enorme e che dare risposte è sempre più difficile, anche se qualche idea in fondo io ce l'avrei, ecco. Perché intanto si corre per andare più veloci di qualcun altro o si corre in una gara con se stessi prevalentemente? Prevalentemente si tratta sempre di gare con se stessi, esclusi forse i velocisti, le persone che appunto fanno corsa a livello agonistico e professionale, ma tutti questi corridori che noi vediamo in giro per le strade, nei parchi, lungo i marciapiedi, nelle spiagge, nei posti anche più improbabili, no? Con ogni clima, sotto il sole, la pioggia, il vento, tutte queste persone sfidano fondamentalmente se stesse, cercano sempre di superare un proprio limite personale, vedere dove possono arrivare, sia fisicamente con la corsa, sia interiormente con la loro capacità di resistenza. Perché per correre bene, correre a lungo, non è necessario tanto o solo avere un fisico allenato e preparato, ma occorre soprattutto avere la testa giusta. E allora, Gaia, hai detto che tu qualche idea te la sei fatta perché ci piace così tanto correre. Quali sono, secondo te, i motivi principali? Ma io penso che fondamentalmente la corsa, più di qualsiasi altra attività sportiva, ci renda liberi. Nel momento in cui si corre, ci si sente veramente liberi. Questo perché la corsa, come ogni sport, nasce come un gioco. Tutti gli altri giochi hanno delle regole precise, definite, anche quando si fanno al di fuori della gara o della competizione. Per giocare a calcio ci sono certe regole, a basket altre regole e così via. Per correre non serve quasi nulla, tranne che un paio di scarpe da corsa, e ogni volta ci si può inventare il proprio tragitto, il proprio percorso, la durata. La corsa si reinventa ogni volta, no? È sempre qualcosa di diverso che ci può portare sempre in posti nuovi e farci provare anche ogni volta emozioni diverse. Tanto che la corsa alla fine è l'attività preferita dai bambini proprio. Tutti i bambini corrono e a tutti i bambini sembrerà, diciamo, strano, ma in un certo senso, soprattutto a quelli più piccoli, viene quasi impedito di correre. Tutti ci saremmo sentiti dire almeno una volta dai nostri genitori: vai con calma, non correre che ti fai male, non correre che cadi. Questo perché il bambino per natura vuole giocare. Il gioco primitivo per eccellenza è proprio la corsa. La corsa che è il simbolo della libertà dell'infanzia, quando ancora si è fuori dalle regole e non ci si deve trattenere con la camminata, che poi simbolicamente può rimandare a molto altro, ma tenendoci nel nostro discorso, è un po' fare quello che fanno gli adulti, che gli adulti camminano, se non hanno un motivo pratico per correre, gli adulti camminano, i bambini corrono anche senza motivo. Il loro modo di muoversi nello spazio è quello di utilizzare la corsa. Ogni volta che noi corriamo ci sentiamo quindi un po' più liberi e torniamo tutti un po' più bambini. Quindi, Gaia, le ginocchia sbucciate dei bambini ci stanno, insomma, fanno parte della libertà fondamentale. Assolutamente, assolutamente. Ma mi spieghi finalmente, secondo te, perché Forrest Gump si mette a correre in quel modo? La cosa bella è che la risposta che dà Forrest Gump quando gli viene chiesto nel film perché corri è la stessa che hanno dato i corridori più famosi, che di cui ho letto, magari mi è capitato di leggere o di sentire delle interviste, e tutti rispondono: perché mi andava di farlo, perché mi piace. È questa proprio la bellezza della corsa, no? Si corre perché ci piace correre, non c'è un motivo, non c'è un'utilità, e anzi spesso coloro che corrono, no, magari sotto la pioggia o appunto in posti strani, vengono presi un po' per matti, no, da quelli che in quel momento stanno passando e non corrono. C'è questo germe di follia nella corsa e anche di voglia di andare un po' fuori dalle regole, di non trattenersi, che secondo me è la vera gioia della corsa ed è il vero motivo poi per cui si fa. Correre è una filosofia, ve lo ricordo, il libro di Gaia De Pascale, che ringraziamo molto per essere stata qua con noi e per aver corso con noi. Ciao Gaia! Grazie. Grazie a voi, ciao! Non batter la fiaccola, curiosità a 5 cerchi. Maschi e femmine e a volte entrambi. Nella storia delle Olimpiadi qualcuno ha barato. Nel 1964, a Tokyo, la polacca Ewa Klobukowska, che faceva parte del quartetto che disputava la staffetta 4x100, fece vincere il suo paese soprattutto grazie alle sue eccellenti prestazioni. Ma nel 1967 si scoprì che Eva era in realtà Adamo, vale a dire un uomo. Squalifica e, se vogliamo, vergogna vita. Prima di lei, nel 1960, la rumena Yolanda Balas, che aveva vinto la medaglia d'oro nel salto in alto, fu sottoposta al test per verificare se fosse uomo o donna. Nessuno del Comitato Olimpico ha mai dichiarato pubblicamente l'esito, ma in seguito ai risultati è stata espulsa dai Giochi Olimpici. Terra in vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio con Non batter la fiaccola. Andiamo alla ricerca delle tante curiosità che hanno caratterizzato i Giochi Olimpici moderni, e poi ci sono le bellissime storie di Telmo Pievani. Oggi, Telmo, si va di corsa in quale direzione? Beh, abbiamo parlato della corsa e ce l'abbiamo dentro. In effetti gli studi dell'evoluzione ce lo confermano, perché pensa che il più bello, il più completo reperto del primo essere umano mai scoperto viene dall'Africa e si chiama Ragazzo del Turkana. E chi lo ha studiato si è accorto che l'unica vera grande novità che c'era in quell'essere umano nostro antenato a 2 milioni di anni fa è quello di avere gambe lunghissime, cioè la corsa. Il cervello è ancora abbastanza piccolino, poco più grande di quello di uno scimpanzé, diciamo, e le gambe invece sono molto lunghe. Pensa che è un ragazzo, quindi aveva 8 anni, è stato calcolato che se fosse cresciuto sarebbe arrivato a 1,70-1,80. Quindi letteralmente ciò che ci ha reso umani sono le gambe e quindi la corsa. In particolare pensa alla corsa sulla distanza, nel senso che la prerogativa di noi umani non è tanto lo scatto quanto il correre molto a lungo con molta resistenza, tant'è vero che si pensa che i primi cacciatori umani usassero proprio questa tecnica che ancora adesso viene usata da alcuni cacciatori, cioè inseguire una preda lungamente finché non si stanca e poi ucciderla quando la si prende per noia, insomma. La si prende, esatto, la si prende la distanza. Ed è così, se ci pensi, che noi siamo diventati migranti. Noi migriamo da 2 milioni di anni e camminando su quelle gambe così slanciate, così lunghe, abbiamo fatto il giro del mondo, perché poi quegli stessi umani, come il ragazzo del Turkana, nel giro di poche centinaia di migliaia di anni, da quell'Africa dove li abbiamo trovati, li trovi in Europa, li trovi in Cina, li trovi a Giava. E poi dopo arriverà Homo sapiens, che è un'altra specie che ha camminato tantissimo e che arriverà anche nelle Americhe e in Australia. Quindi il camminare è veramente ciò che ci ha reso umani. Un grande antropologo diceva: ciò che ci ha reso umani non è stata tanto una grande testa, ma buoni piedi. E chissà invece cosa ci rende animali? Beh, lo chiediamo alla nostra esperta, perché è il momento dei record bestiali. Animaliadi, record bestiali a 5 cerchi. Abbiamo preso le discipline sportive dei giochi olimpici, le abbiamo portate nel mondo animale, stiamo cercando il podio e lo facciamo con Caterina Spiezio, responsabile settore ricerca e conservazione del parco Natura Viva di Pastrengo in provincia di Verona, parconaturaviva.it, come sempre vi ricordo il sito, ma andate anche a visitare il parco perché è bellissimo. Ciao Caterina. Ciao. Eccoci qua, allora oggi la disciplina scelta è il salto in alto, che è bene. Tipica disciplina da animali, direi, e andiamo ad assegnare subito il bronzo, a chi va? Il bronzo va al delfino, che ha questa capacità di saltare oltre 6 metri fuori dal livello dell'acqua, e la cosa interessante è che sono diverse le ipotesi che suggeriscono il perché fa questi salti fuori dall'acqua. A me quella che piace di più è che potrebbe essere una forma di gioco o di comunicazione, che probabilmente è la più probabile. 6 metri sono tanti. 6 metri sono tanti, ma abbiamo degli altri primati. Allora è il momento della medaglia d'argento, a chi? C'è questa antilope, piccola antilope africana, che si chiama saltarupi non a caso, perché proprio grazie al fatto che è così piccolina e così agile riesce comunque a saltare addirittura 7,6 metri di altezza, ma la cosa ancora più, diciamo, impressionante di questa sua performance è che riesce ad atterrare su delle piccole rocce che sporgono di dimensioni molto piccole, che potrebbero essere grandi circa una moneta. Non ci credo. Ma direi che nel nostro medagliere l'antilope sta già... C'è quasi sempre un antilope. Sta già portando a casa tante medaglie. Deve scappare, deve difendersi e scappare. È il momento della medaglia d'oro. A chi? Questi sono proprio degli animaletti molto strani. Qui siamo con i copepodi. Sono dei piccoli crostacei che vivono nell'oceano, quindi siamo in acqua a questo punto. E sono di grandezza di 1-2 mm, qui non è facile dire esattamente di quanto è il salto, ma bisogna dire che si muovono, diciamo, se riescono a fare un salto, dice 500 volte più grande della lunghezza del proprio corpo, che equivale a 10 volte qualunque performance qualche altro animale o l'essere umano, o anche dei motori realizzati dall'essere umano, riescono a fare. Quindi è veramente molto molto importante questo salto, usando, perché ha diverse zampine, le zampe anteriori e le zampe posteriori, usando delle zampe posteriori, perché quelle anteriori servono per il nuoto, mentre quelle posteriori servono per fare questo importante salto, e ha la muscolatura più importante di qualunque altro animale sulla terra. E in più lo fa in acqua, quindi c'è anche l'attrito dell'acqua. Esatto, in più lo fa in acqua, sempre perché per scappare dai predatori. La funzione è sempre quella. E invece il classico, non hai citato la saltatrice per eccellenza che viene in mente a tutti, la pulce. Certo, la pulce, perché la pulce ha un primato molto particolare, che è quello di riuscire a fare il salto più lungo e il salto più alto. Non assolutamente più alto rispetto a tutti quanti, ma insieme ha la performance migliore come saltatrice. Infatti riesce ad avere una lunghezza nel salto di 220 volte per il corpo, ed è anche lei grande 2 mm, e di 150 volte in altezza un ghetto del corpo. Ma la cosa caratteristica è che quando salta verso l'alto ha un po' una sorta di spirale, una molla spirale, quindi si catapulta poi verso l'ospite al quale poi si attaccherà per riuscire a sopravvivere. Certo, perché la sua medaglia la vuole condividere sempre con qualcun altro. Esatto. Grazie davvero a Caterina Spiezio, parconaturaviva.it. Ci ritroviamo qui la prossima puntata con un altro podio. Ciao! A presto! Grazie, ciao! Noi ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con Terra in Vista. Non batter la fiaccola. Curiosità a cinque cerchi. Atene, prime Olimpiadi 1896. È un giorno molto freddo e si sta disputando la gara ciclistica dei 100 km su pista, che equivalgono più o meno a 300 giri. Il ciclista francese Flamin è determinato a vincere a tutti i costi e sta spingendo forte sui pedali quando si accorge che uno dei suoi avversari, il greco Colettis, ha un guasto alla propria bicicletta. Flamin rallenta, scende dal sellino e fa compagnia a Colettis finché non gli riparano la bici. Dopodiché riparte e riesce a vincere con ben 11 giri di vantaggio, tagliando il traguardo all'urlo di «Vive la France!». Colettis, per la cronaca, si ferma a 289 giri, mentre gli altri 7 partecipanti si ritirano prima. Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i fuori posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, un ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì sì, è vero, c'hai ragione Filippo, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. Dal 1 agosto Umberto Alezio e Filippo Roma saranno i fuori posto. Dal lunedì al venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta! Lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Terra in Vista. Federico Taddia e Telmo Pievani, questa è Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, le domande dei bambini, le risposte dei grandi. Vai col prossimo quesito, oggi si parla di corsa. Yuhu! Perché ci sono uomini più resistenti di altri? È vero, ci sono uomini e donne più resistenti di altri, nel senso che corrono e non si stancano mai. È solo allenamento, c'è anche predisposizione. E perché i 5.000 e 10.000 li vincono sempre atleti africani degli altopiani? Questo tenteremo di scoprirlo insieme al prossimo ospite. Diamo il benvenuto all'antropologo Marco Aime. Benvenuto Marco. Ciao. Ciao a tutti. Eccoci qua, allora, intanto è vero, ci sono uomini e donne più resistenti di altri? Beh, è vero, ci sono dei gruppi, delle popolazioni da cui, non tutti, però molte persone hanno sviluppato una capacità di resistenza maggiore. Ecco, come diceva giustamente Telmo, se noi guardiamo nelle gare di fondo e di mezzo fondo, nelle corse lunghe, c'è un dominio assoluto di atleti africani, ma anzi, africani forse un po' generico, di una certa parte dell'Africa, quasi tutti vengono dall'Etiopia o dal Kenya. Ma questo perché sono abituati a correre fin da bambini? Adesso sto pensando come in Brasile tutti giocano a calcio, quindi sono molto più forti nel calcio, no? Allora, ci sono, diciamo, due spiegazioni. Da un lato è vero, molto spesso c'è un'abitudine alla corsa, magari legata anche a volte alla caccia, al fatto di dover percorrere distanze lunghe, ma c'è soprattutto un discorso di evoluzione, di adattamento. Cioè, molte parti del territorio dell'Etiopia o del Kenya sono degli altopiani, a 1500-1800 metri di altezza. A quell'altezza c'è una minore percentuale di ossigeno nell'aria, per cui le persone che abitano in alta quota devono sviluppare una maggiore capacità di respirazione rispetto a chi vive per esempio a livello del mare. Quindi è normale che chi è abituato da un lato a correre e dall'altro a correre in alta quota, quando poi si trova a quote più basse, ha una resistenza maggiore, perché il suo fisico è abituato a sopportare fatiche con minore ossigeno. Quando si trova con quantità maggiore di ossigeno, sviluppa una maggiore capacità di resistenza. Ma Marco, è molto suggestiva questa cosa, io ci penso sempre tutte le volte che vedo queste gare, vengono dall'Etiopia e dal Kenya, che proprio sono i luoghi dove siamo nati noi, no? Dove è nato il genere Homo, dove è nata poi la nostra specie Homo sapiens. Però ti chiedo questo, bisogna anche evitare l'errore di attribuire alla biologia o ai geni quasi un'essenza di queste popolazioni, esatto. No? Perché in fondo sono adattamenti molto recenti e, come dicevi anche tu, sono diversità di gruppo, ma anche poi di singoli individui, della vita che hanno fatto, no? Che dici? Sì, esatto. Non è che tutti quelli che abitano in Kenya o Etiopia diventano come Gebre Selassie, ecco, diventano dei grandi mezzofondisti. È chiaro che c'è una percentuale maggiore di tutti, però sono appunto non è una cosa che è dall'origine, dalla nascita, è un adattamento legato poi a una selezione, come potremmo anche dire, a proposito, sono, magari si dice a volte luogo comune, che molti afroamericani o i giamaicani sono più veloci, però forse anche questo è legato poi a processi di selezione anche piuttosto recenti. Sì, che io pensavo, per esempio, la Bolivia non ha mai vinto una medaglia alle Olimpiadi, esatto, poverini, esatto. Ma i boliviani vivono in altitudine e hanno anche sì. Loro il sangue con gli stessi globuli rossi, quindi è un po' strano, no? Ci sono molte differenze, poi molte irregolarità, diciamo, nella diversità umana. Sì, esatto. Possiamo trovare delle motivazioni in queste condizioni ambientali, però ecco, non bisogna cadere nell'errore di dire basta nascere in Kenya per essere dei grandi, oppure basta alta quota. Ci sono anche motivazioni storiche, a volte una certa così attenzione, una dedizione a un certo sport, per esempio, forse nasce anche il fatto, non so, di essere stati magari colonizzati in Kenya dagli inglesi, o magari in qualche luogo c'era un quartiere che ha cominciato ad allenare dei ragazzini e si è creato un gruppo. Ecco, anche questo è un elemento di cui bisogna tenere conto. Quindi Marco, non è che tu, andando in Kenya, dove insomma sei stato in queste zone, adesso sei diventato più resistente, corri meglio? No. Facevo il metafono, ma con risultati insomma discreti, non di più, da giovane, e non miglioravo di certo andando in Kenya. Ringraziamo davvero Marco Aime per essere stato qua con noi a Terra in Vista. Ciao Marco. Marco, ciao, grazie a tutti voi. Ciao. Non batter la fiaccola. Curiosità a 5 cerchi. Ci sono paesi che ti stupiscono a ogni Olimpiade. È il caso dell'Uruguay, che nel 1924 era la prima squadra sudamericana che giungeva in Europa. Alle Olimpiadi il suo primo incontro era previsto con la Jugoslavia. Gli jugoslavi, incuriositi, mandarono degli osservatori segreti per spiare l'allenamento. Gli uruguayeni se ne accorsero e cominciarono ad allenarsi commettendo errori clamorosi, tirando il pallone in direzioni improbabili, sollevando il terreno, facendosi male fra di loro. La voce su quanto fossero imbranati si diffuse al punto che allo stadio vi fu un tiepido afflusso di spettatori. L'Uruguay non era certo una squadra per cui perderci il sonno. Nel pomeriggio dell'incontro l'Uruguay vinse 7-0 per poi divenire campione olimpico. Non battere la fiaccola, vi ricordo che tutte le nostre curiosità a 5 cerchi le potete riascoltare sul sito radio24.it nella sezione contributi speciali, dove trovate le animaliedi, dove trovate anche la rubrica di Andrea Vico con la sua scienza a 5 cerchi, che fra pochissimo sarà qua con noi. Adesso invece è il momento di un'altra storia di Telmo Piovani. Vai Telmo. Ma allora guarda, abbiamo appena sentito da Marco Aime che noi siamo nati in Africa, no? E che siamo dei corridori da altopiani. Pensa che noi sappiamo che la specie nostra, Homo sapiens, è uscita dall'Africa intorno a 60-65 mila anni fa. Quindi tutti noi veniamo fuori da questi sapiens usciti dall'Africa qualche decina di migliaia di anni fa. Qualche mese fa su una rivista scientifica è uscita una scoperta fantastica. sulla baia del fiume Yenisei, quindi sul mare Artico. Siamo da tutt'altra parte nel mondo. Ha una latitudine pazzesca, pensa, più a nord di Capo Nord in in Europa. Sì. Hanno trovato un mammut congelato, in ottime condizioni, il suo scheletro perfettamente conservato, e si sono accorti, era un giovane maschio, che non è morto di morte naturale, ma è stato cacciato. Hanno trovato tutti i segni, no, della macellazione dell'animale, ma hanno trovato anche i segni di come è stato ucciso. È stato ucciso con delle lance a distanza che lo hanno colpito nei punti nevralgici. Lui ha perso sangue e questi cacciatori lo hanno inseguito per chilometri e chilometri finché questo animale, che è molto pericoloso da avvicinare, non è crollato. Gli hanno dato il colpo di grazia e poi lo hanno fatto a pezzi, se lo sono portato via tutto, perché del mammut non si buttava via niente. Quindi hanno trovato una scena di caccia, di macellazione, ma la cosa incredibile è che è avvenuta 45.000 anni fa, cioè pochi millenni dopo che noi africani eravamo usciti dal nostro continente d'origine. Quindi si scopre che dei cacciatori africani sono stati capaci in pochi millenni di arrivare fino nell'Artico, di sopravvivere lì e di fare questa caccia difficilissima sulla lunga distanza. Quindi vuol dire che noi siamo veramente molto mobili, molto adattabili. Pensa alla differenza tra vivere in Kenya, in Etiopia ancora oggi, e vivere nel mare Artico, e una grandissima resistenza. Quindi sostanzialmente un gruppo umano che è capace di correre in questo modo, di spostarsi in questo modo, non ha più confini. Da quel momento in poi la Terra per lui è tutta raggiungibile. E queste sono le suggestioni di Telmo Pievani. Adesso invece è il momento di giocare con la scienza. Scienziati, esperimenti a cinque cerchi. La nostra medaglia d'oro è Andrea Vico, divulgatore scientifico dell'associazione TuScience. Come sempre, tuscience.it è il sito di riferimento. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ciao. La medaglia d'oro in realtà non la merito certo io, ma oggi per esempio parliamo della disciplina che più ci ha dato medaglie d'oro complessivamente in tutta la storia delle Olimpiadi, che è la scherma. Sì. Noi siamo sempre stati molto molto molto bravi nelle varie discipline, spada, fioretto e sciabola, che hanno un alto contenuto tecnico, perché innanzitutto gli atleti sono degli interruttori viventi. Come sapete, in due casi, fioretto e spada, il punto viene assegnato non dal giudice ma da una luce verde, da un contatto che viene aperto, perché la punta della spada e del fioretto ha un bottoncino, c'è tutto un filo elettrico che corre lungo la manica dello schermidore e gli spunta dietro la schiena e viene attaccato un altro filo, c'è tutto un meccanismo di trasferimento, ma ci vuole il corpetto, l'avversario che chiude l'interruttore, e questa, senza addentrarci, la resistenza ohmica, cioè il signor Ohm, che ha studiato, uno dei grandi studiosi scienziati che hanno studiato l'elettricità, in qualche modo si ritrova presente anche all'interno di un meccanismo che fa parte intrinsecamente della scherma. E un altro aspetto tecnico, ne parlavamo di oggetti, di materiali che entrano ed escono dalle competizioni. Sì. Anni fa, nel 99, ci fu in maniera unanime l'approvazione a usare come maschera non la solita griglia che siamo sempre stati abituati a vedere, che chiaramente permette una visuale mica semplice da chi sta dentro, cioè dagli occhi dello schermidore, e ci fu la sperimentazione di delle maschere fatte in plexiglass, oppure Lexan, che è un altro materiale plastico, quindi le maschere completamente trasparenti, che sembravano la rivoluzione, perché uno, lo schermidore diventa visibile, quindi lo sforzo, gli occhi, la fatica, il volto, che chiaramente esprime molto bene tutta la tensione di una gara, era completamente nascosto, e quindi abbiamo tutte le immagini degli schermidori che, come primo gesto, quando vincono, si tolgono la maschera per esultare in libertà. Dopo però alcuni anni, nel 2014, più o meno d'accordo tutti quanti, queste maschere sono state bandite, quindi adesso si è ritornati, quindi una tecnologia nuova che era realtà dopo poco più di 10 anni viene tolta, vuoi per motivi diciamo di tecnica e di sicurezza, ma erano superabili, forse per un ritorno al gusto un po' più antico di questa disciplina, per una visione forse un po' più romantica, poi chiaramente ogni pensiero vale, però insomma è vero, il gesto del togliersi quella maschera, vedere dietro la faccia sofferente o esultante, è comunque una delle icone di questo sport. È un'icona, esatto, quindi la tecnologia entra, dà un cambiamento, ma poi non piace, meglio tornare all'antico, e quindi ecco un'altra storia di scienza e di sport. Grazie davvero ad Andrea Vico, TwoScience.it, per conoscere tutte le attività proposte dall'associazione. Ciao, alla prossima! Ciao, presto. Ciao, presto! Noi ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua, con Terra in Vista. Non batter la fiaccola, curiosità a 5 cerchi. C'è chi in vista delle Olimpiadi si allena come Michael Phelps, il nuotatore di Baltimora, che è riuscito a portarsi a casa ben 22 medaglie olimpiche, di cui 18 ori, un record assoluto. Ora Phelps si è ritirato dalle competizioni, ma finché era in ballo, il suo allenamento prevedeva 2 ore al mattino e 3 al pomeriggio da passare in vasca, per 6 giorni su 7, con una media di 16 km al giorno. Ma nella storia delle Olimpiadi c'è anche chi non ha mai avuto voglia di far nulla. Il pugile Leon Spinks non amava correre e fare gli allenamenti. Per questo si spruzzava acqua sul viso per simulare il sudore e risparmiarsi la fatica. Nonostante la pigrizia, riuscì a vincere ugualmente l'oro nella categoria medio massimi alle Olimpiadi del 1976. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Terra in vista. Eccoci qua, Terra in vista con la terza domanda di oggi. Come si impara a correre in più in fretta? Certo, questa è la domanda. Abbiamo parlato del perché si corre, dell'importanza della corsa, del valore che ha avuto nell'evoluzione. Proprio il bello del correre è anche andare in fretta. Sempre più in fretta. E per imparare a correre più velocemente abbiamo invitato un campionissimo, è attualmente detentore del record italiano del salto in lungo, che è un'altra delle sue specialità, ma lui nasce velocista. Diamo il benvenuto ad Andrew Howe. Ciao Andrew. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora, si può imparare a correre più in fretta? Ma io penso di sì, cioè, beh, guarda, imparare a correre più in fretta è un po' come posso dire, cioè, è come imparare una poesia, su un certo punto di vista, cioè bisogna esercitarsi costantemente per chiaramente poi ricordarla quando la si deve fare davanti alla maestra o alla professoressa o esso che sia, quindi non è di certo una cosa che viene naturale. È chiaro che la corsa è sì una cosa naturale, però la corsa veloce diventa una cosa tecnica quando certo. Si vuole andare veloci, quindi è logico che c'ha bisogno ovviamente di allenamento. Ma puoi farci qualche esempio pratico? Si corre più velocemente cambiando la postura, mettendo le mani in una determinata posizione, appoggiando il piede in un modo diverso? Ma più che altro si corre più in fretta sfruttando sicuramente molto di più i piedi, perché la componente più importante chiaramente della corsa è la stiffness, come la chiamiamo noi in gergo atletico, cioè la reattività dei piedi. Cioè, se una persona ha dei piedi buoni, per così dire, riesce sicuramente a correre molto più forte. Poi è chiaro che c'è la componente forza, cioè più una persona diciamo ha una forza abbastanza esplosiva, e più facile sarà per lui essere più rapido o per lei più rapida, quindi è tutta una situazione molto correlata. È chiaro che uscire il giorno e dire oggi voglio correre forte, va bene, faccio 100 metri, boom, vado fortissimo e poi mi strappo, mi faccio male, mi fa male la schiena, insomma mille situazioni. Invece no, c'è proprio tutto un procedimento. È chiaro che come posso dire, la tecnica la si acquisisce correndo, partendo piano piano. Certo. Perché non si può partire chiaramente al massimo della velocità. L'ingrediente del talento invece come lo vedi? Cioè, se tu vedi correre Bolt così alto, ti rendi anche conto che lì c'è un aspetto di unicità individuale, no? Particolare. Sì, sì, no. Beh, a parte è chiaro che se c'è una componente di talento è una questione completamente diversa. Cioè, siamo nati tutti per correre, perché alla fine comunque, come sappiamo camminare, sappiamo anche correre, però sappiamo benissimo, cioè, a chi viene più facile e a chi viene meno facile, in un certo senso. E a chi viene più facile sono chiaramente quelli che hanno un pochettino più di talento. Bolt, Carl Lewis, Jesse Owens, via dicendo. Insomma, loro, secondo me, se li prendevi da piccoli, li vedevi correre, vedevi che correvano naturalmente bene. Perché comunque, per fare un esempio proprio classico, cioè, se voi o se i genitori o chi ci ascoltano prendono il figlio da un certo punto di vista, che non è che deve avere un grandissimo talento, quello che sia, e lo fanno e lo vedono che corre nel parco, teoricamente la corsa di un bambino è la corsa quasi perfetta, perché non c'ha implicazioni tecniche, non ha cosiddetto, come posso dire, è una corsa naturale, per così dire. E quindi l'atletica, almeno per il mio sport e credo anche per la corsa, più naturale è, mm-hmm, e meno sforzo c'è bisogno e meno problemi avrai col passare del tempo. Quindi è tutto un crescendo. Certo. Andrea, tu hai partecipato a 2 Olimpiadi, giusto? Sì, sì, ho fatto il 2004 quando avevo 19 anni. Esatto. Dopo che avevo vinto i 200 e il salto in lunga campione del mondo junior, e poi nel 2008, insomma, l'anno dopo Osaka, che sono arrivato secondo ai campioni del mondo. Ecco, la parola Olimpiadi cosa suscita in te? Qual è l'immagine? Ma è una cosa un po' particolare. L'Olimpiade sicuramente adesso piano piano sta diventando sempre diversa, uh-huh, a mio parere. Cioè, a mio parere, quando ero più piccolo, è chiaro che è logico che se vado a rivedere l'Olimpiade del 96 d'Atlanta, che furono quelli che per me quando ero bambino non furono proprio una cosa eclatante, con Michael Johnson 19:32, Carl Lewis, Donovan Bailey, cioè, diciamo, quello per me era l'Olimpiade. È chiaro che da partecipante le cose diventano diverse, cioè c'è un aspetto completamente diverso, diventa quasi un amore odio. È una cosa un po' particolare. C'è il sogno, perché c'è il sogno, è tutta un'altra cosa, però il sogno, cioè, da parte d'atleta, diciamo, diventa una situazione in cui tu lo vedi da sogno, però devi farlo diventare più piccolo possibile per poterci partecipare, perché sennò ti carichi di responsabilità inutili, giustamente, anche psicologiche, quindi magari vai a gareggiare e non ti riesce bene quello che realmente vorresti fare. Certo, lì, insomma, anche la testa gioca tanto. Grazie davvero, Andrew. Adesso andiamo a seguire i tuoi consigli e tenteremo di correre più velocemente, con pessimi risultati, lo so già, non perché non siano ottimi consigli, ma perché le tue cavie sono la materia di partenza non funziona. Grazie davvero, ciao Andrew. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. E adesso è il momento di andare a scoprire quello che abbiamo imparato oggi. Oggi abbiamo imparato che ogni anno vengono acquistate 1 miliardo di scarpe da corsa. Poi abbiamo imparato che il più antico corridore mai scoperto è vissuto 2 milioni di anni fa e aveva già un gran bel fisico. E poi abbiamo scoperto che per correre chilometri e chilometri, nascere in Etiopia aiuta, ma non basta. Abbiamo scoperto anche che il delfino salta 6 metri fuori dall'acqua e non si sa il perché. Ma soprattutto abbiamo imparato che la corsa non serve a niente, ma ci fa sentire liberi. Questo è Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, un programma scritto con Paola Manduca, un grazie in assistenza oggi a Massimiliano Lollis e Valeria Bernardi alla parte tecnica, radio24.it come sempre il nostro sito da dove poter riascoltare la puntata. Ciao Telmo, vai a correre ora? Subito. Bravo, ci sentiamo alla prossima puntata, ciao! Filastrocca della lentezza. Io vado lento. Io vado piano. Chi corre sempre non va lontano. Il mondo è pieno di cose lente. Chi corre sempre poi non le sente. Guarda che bello questo universo. Se corri sempre, te lo sei perso. Senti che bella questa carezza. Non ci sarebbe senza lentezza. Rallenta un poco, rallenta ancora. Cosa succede se perdi un'ora?